Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli. L'evasione impossibile di Sant' Notar Nicola, parte quinta. Per capire come mai noi tre, incensurati, gente abituata a lavorare e a vedere soprattutto l'aspetto politico delle questioni, anche di quelle private, ci decidessimo a compiere un assalto che in linguaggio giuridico si chiama rapina pluriaggravata, bisogna anche sapere quanto sono odiate le guardie Fiat, i cosiddetti guardioni. Questo fu il motivo per cui l'assalto fu condotto in un certo modo, duro e aggressivo, ancor più di quanto la situazione non richiedesse. L'odio per le guardie Fiat fu l'elemento aggiunto a tutti quelli che rimuginavamo dentro da tanto tempo, che ci indusse a passare all'azione. Certamente Piero e io, sul momento, rimanemmo perplessi. Facile è parlare, facile è elaborare. Ben diverso è trovarsi davanti a una realtà che ti impone di agire fisicamente, impegnandoti e rischiando di persona. Poi Danilo cominciò a spiegare il piano tattico e le modalità di esecuzione. Era abbastanza convincente. Anni prima lui aveva lavorato in quella sezione della Fiat Ferriere che ci proponeva di attaccare. E questo noi lo sapevamo. Avevo anche sentito raccontare da altri di quando lui era salito per primo nel 1948, il giorno dell'attentato a Togliatti, sulla più alta ciminiera delle Ferriere, e vi aveva innalzato la bandiera rossa della rivolta, del dolore e della speranza di tutti gli operai italiani. Continuò a parlare dell'azione da fare. Si trattava di andarci a prendere le buste paga del turno di notte. Lui conosceva la topografia, gli orari e le abitudini del personale. «Ci sarebbero stati una ventina di milioni», disse. Era di sera. Il pericolo di essere visti in giro e riconosciuti era minimo. Piero fece parecchie domande, poi si dichiarò favorevole, in linea di principio. Io continuavo a essere perplesso. L'idea era affascinante, ma non mi sentivo all'altezza di un'azione del genere. E poi il pensiero di compiere un gesto così estraneo alla mia personalità, cioè una rapina, sia pure motivata da finalità non egoistiche, non mi piaceva. Danilo continuò a mettere in risalto la prepotenza di Valletta e dei suoi tirapiedi, lo sfruttamento degli operai, la giustezza delle nostre azioni. Aggiunse che questo era l'unico modo di passare dalle parole ai fatti. Con i soldi avremmo acquistato armi per i nostri compagni. Intanto avremmo acquisito un'esperienza che in seguito ci sarebbe stata utile. Avremmo collaudato le nostre capacità per poi col tempo scegliere altri obiettivi. La convinzione indiscussa era che prima o poi la situazione sarebbe cambiata e sarebbe diventata veramente rivoluzionaria. Noi saremmo stati in pratica dei precursori della lotta armata. Alla fine Piero si dichiarò completamente d'accordo. Io mi riservai di accettare, volevo pensarci su. Infatti ci pensai su parecchio nei giorni seguenti. A Biella continuavo la solita vita. Intanto lavoravo, facevo un po' di attività politica e mi prendevo qualche raro divertimento. Ero pur sempre un giovane di 20 anni. Passai anche notti insonni. Non era facile prendere certe decisioni, in cui era in ballo anche la vita, o anni di galera, o la rottura con tutto un passato, e anche se andava male, il dolore di mia madre e della ragazza. Eh sì, avevo anche la ragazza. Un amore grande e contrastato, secondo le regole della vecchia provincia. I suoi non vedevano di buon occhio il legale con me, il fioraio ambulante, come mi chiamavano, e soprattutto non vedevano di buon occhio la mia attività politica. Difficilmente, secondo loro, mi sarei messo a posto. Difficilmente sarei stato un buon marito per la figlia. In fondo, credo non avessero torto. Però noi ci amavamo ugualmente, anzi tutte le difficoltà che facevano che accrescere il nostro attaccamento. In quei giorni di marzo pensai molto alla ragazza in relazione alle decisioni che avrei dovuto prendere. Se mi fosse successo qualcosa, come l'avrebbe presa lei? E poi, avevo il diritto di impegnarmi così a fondo senza dirglielo o senza dirle almeno che era meglio lasciarci? Era un dilemma che mi turbava fortemente. Poi mi veniva in mente che questi pensieri non erano degni di un comunista, nel senso che non si deve aver paura delle conseguenze personali, che l'unica valutazione deve essere sul piano politico. Mi trovavo nei pasticci e non sapevo a chi rivolgermi per confidare le mie preoccupazioni. Avere un aiuto, un consiglio. Capivo bene che sarebbe stata un'imprudenza gravissima e un mancare alla parola data. Inoltre mi rendevo conto che dovevo scegliere da solo, che dovevo essere io l'arbitro della mia vita, e questo faceva passare in secondo ordine i miei dubbi. Così, quando vennero Piero e Danilo a Biella, qualche tempo dopo, per concludere, ero già forse inconsciamente preparato ad accettare le loro proposte. Andammo alla baraggia a provare altre armi che nel frattempo Danilo era riuscito a recuperare e che erano costate parecchio. Tra l'altro Danilo si era fatto prestare dei soldi dal suo principale per gli acquisti e doveva restituirli. Piero era andato con lui a vedere il posto, a controllare gli orari e le informazioni. Mi assicurò che tutto era predisposto in modo da ridurre al minimo i rischi. La zona si prestava bene alla ritirata. Non ci sarebbero stati curiosi. L'operazione doveva avvenire di sera. C'era un pericolo e me lo disse subito. A 100 metri si trovava una caserma dei carabinieri, ma questo era un rischio che accresceva la bellezza dell'azione. Il loro smacco sarebbe stato maggiore. Questo era un altro aspetto valido che Piero pose in risalto per confermare l'utilità politica della nostra azione. L'aspetto di rottura, di oltraggio, di derisione verso le autorità costituite e di confutazione nei fatti di certe tesi opportunistiche del partito. Quindi, oltre agli obiettivi immediati, pratici, ma sotterranei e occasionali, reperire soldi per acquistare armi da mandare ai compagni, ci sarebbe stato il clamore del gesto di sfida, compiuto apertamente. «Tutte queste cose, e altre ancora», disse Piero. Ricordò che c'era la scommessa con alcuni compagni del partito. L'unico ritornello che ci cantavano i compagni era «La polizia è troppo forte, non si può fare niente, bisogna aspettare che la situazione maturi». Avremmo dimostrato che tutto ciò non era vero. Quando ci sono la risolutezza e la volontà di combattere, si può sconfiggere il nemico di classe. Esso ha i mezzi e la ferocia, ma ha paura, è vulnerabile per questa sua paura. La nostra storia lo ha dimostrato dal principio alla fine. Siamo degli uomini qualsiasi, con i nostri limiti, le nostre debolezze, gli affetti, la famiglia, l'amore per la vita. Tra noi e i poliziotti c'è una sola profonda differenza. Essi fanno il loro mestiere al servizio di chi li paga, ma dentro sono vuoti. Ogni volta abbiamo letto il terrore nei loro occhi quando li abbiamo guardati in faccia. Quel giorno di marzo a Biella decisi quella che sarebbe stata la mia sorte futura. Dopo, tutto ciò che accadde non fu che una logica conseguenza della decisione presa quel giorno. Danilo aveva convinto Piero che d'altronde era già orientato per conto suo in quella direzione, anche se le sue perplessità durarono a lungo. Piero contribuì a convincere me. Tutto un miscuglio di idee rivoluzionarie, di predisposizione alla rivolta, di insoddisfazioni, di risentimento, agì dentro di me e mi spinse ad accettare. Dopo non fu più possibile tirarmi indietro e non ci pensai neppure per lealtà verso di loro e verso me stesso, anche se fino all'ultimo oscuri timori, inquietudini e il buon senso comune mi invitavano a desistere. Danilo e Piero tornarono a Torino dopo aver concertato con me un piano d'azione abbastanza preciso. Decidemmo di non farci più vedere insieme. Io ero a Biella e sarebbe stato difficile sospettarmi. Il più vulnerabile era Danilo perché aveva lavorato sul posto, ma pensavamo che difficilmente sarebbero risaliti a lui. Combinammo che ci saremmo rivisti tutti e tre solo un paio di volte per prendere gli ultimi accordi operativi e per provare le armi. Gli appuntamenti dovevano sempre avvenire con cautela, fuori Torino o di sera. La stessa precauzione fu usata da loro due che si presero l'incarico di curare tutta la preparazione del lavoro a Torino. Si allenarono anche tecnicamente, imparando a prendere le auto con la tecnica di rompere il deflettore e con una particolare pressione sulla maniglia. Si trattava di macchine di vecchio tipo. Poi, per la messa in moto, si faceva l'allacciamento dei fili. Andarono più volte a controllare i posti, gli orari, le strade di fuga. Quest'ultimo era il problema più importante. Credevamo che dopo una rapina la polizia fosse molto veloce nell'istituire posti di blocco, nell'effettuare retate. Compiuta l'azione, restare in zona era pericoloso, pensavamo, e andare verso la barriera poteva costituire un indizio prezioso per le indagini. Insomma, Piero e Danilo ebbero il loro da fare per studiare un percorso di ritirata veloce e sicuro. Andai una volta sola con loro a vedere il posto e a controllare tutti i percorsi. Mi sembrò che tutto andasse bene, e infatti fu così. La dinamica dell'azione era piuttosto semplice. La consegna delle buste paga avveniva alle 9 di sera. A quell'ora una 1100 partiva dalla direzione centrale delle ferriere e girava per le varie sezioni, lasciando a ognuna le buste che dovevano servire a pagare il turno di notte. Dalla via si vedeva benissimo giungere la macchina che percorreva tutti i cortili interni. Da essa scendeva l'impiegato, entrava nell'ufficio del personale, la cui porta dava sul cortile, depositava la cassetta con le buste paga e ripartiva. Ogni venerdì si ripeteva l'operazione. Agli operai veniva dato l'acconto, invece il 15 del mese veniva pagato il saldo. A metà aprile mi telefonarono al bar del mercato di Biella. Avevano concordato un collegamento telefonico da usare in caso di necessità. A giorni alterni avrei dovuto passare al bar verso le 8-9 di sera. Se c'era qualcosa di nuovo, avrebbero chiesto del fioraio e il barista mi avrebbe chiamato. Piero mi parlò brevemente quella sera. «Domani tieniti libero. Veniamo a prenderti nel pomeriggio. Abbiamo bisogno di te». Dai primi del mese non ci eravamo più visti e mi stavo già chiedendo se per caso non avessero cambiato idea. Alle 4 del pomeriggio mi trovai all'appuntamento alla periferia di Biella. Arrivarono con una 1100 mai vista. Montai su, partimmo verso Torino. «Ti piace questa macchina?» mi chiese Piero mentre Danilo guidava. «L'abbiamo presa ieri sera». Sentii un certo brivido. «Ma allora è rubata, certo». «E se ci ferma la madama?» «Beh, per loro c'è questo», rispose Piero. E mi fece vedere cosa conteneva il pacco che stava sul sedile posteriore, accanto a lui. «Anzi, è meglio che metti questa qui in tasca», aggiunse, porgendomi una pistola, una calibro 8 automatica, ungherese o austriaca, che sparava anche a raffica. «L'avevo già provata, sparava bene, avevo centrato perfettamente i bersagli. Sei già pratico di quest'arma», disse Piero. «Se ci fermano, io e te scendiamo tranquillamente, mentre Danilo comincia a discutere con il poliziotto, con calma. Non possono sapere che la macchina è rubata, perché abbiamo cambiato la targa. Noi scendiamo e mentre Danilo si lavora il suo, noi blocchiamo l'altro e gli altri, puntiamo le armi, prendiamo le loro e ce ne andiamo. Semplice, no?» Rilevai che era un'imprudenza quella di venire con una macchina rubata e di rischiare tanto. Danilo mi diede ragione. Effettivamente era un rischio, inutile dal punto di vista tattico, ma era utilissimo psicologicamente. Si trattava di prendere l'abitudine all'illegalità, al pericolo, al lavoro di squadra. L'esperienza si fa solo nella pratica, non a tavolino. D'altronde avremmo preso tutte strade secondarie, con la massima prudenza, e poi, anche nel caso di un fermo, avremmo avuto la meglio. Mai la polizia si sarebbe aspettata una reazione del genere. Sarebbe stato un modo anche di provare il nostro coraggio e i riflessi, la nostra efficienza e le nostre cognizioni pratiche. Quasi quasi vorrei che ci fermassero, concluse Danilo. Ci pensi che figura di merda per i poulet? E ci prenderemmo anche il gusto di arrestarli, che ne dici? Se sono solo due, li carichiamo su, li portiamo in un boschetto e li lasciamo in mutande, legati a una pianta. Bello, vero? Finii per entusiasmarmi. Cominciavo a prendere gusto a essere impegnato in un'azione rischiosa. Quando lo dissi a Piero, lui si mise a ridere. Già, vedi che abbiamo ottenuto il risultato giusto? Se tu eri un fifone, saresti sceso e saresti sbiancato. È questo che volevamo vedere. Noi è già 15 giorni che ci diamo da fare. Le prime volte non è stato facile. Va bene che da sempre siamo in lotta con la madama, ma un conto è far casino o dare botte alle manifestazioni o menare un fascista o un poliziotto. In fondo si rischia relativamente. Qui si rischia la pelle e un sacco di anni di galera. Dai ragazzi, incalzò Danilo, mi pare di essere ritornato ai bei tempi, cioè i brutti tempi, quelli della resistenza. Ero conquistato dalla loro sicurezza, capivo che se la sarebbero cavata, sempre in ogni situazione, fin dove fosse stato umanamente possibile cavarsela. Danilo guidava impeccabilmente, con calma e con grande attenzione. Eravamo un po' tesi, da un momento all'altro potevamo incontrare il nemico, anche se non eravamo sulla strada statale. Danilo si inoltrò per una strada di campagna. Dopo un po' si fermò, entrammo in un boschetto, piazzammo delle sagome di cartone a un albero e cominciammo a sparare. Più che altro toccava a me, provai ancora la pistola. «Ci sono pochi colpi», disse Danilo, «è roba vecchia, introvabile. La useremo una sola volta, se sarà il caso, poi la getteremo via». Sarebbe una prova inconfutabile contro di noi, e poi non potremmo rifornirci di altre munizioni di questo tipo. Sparane pure una ventina, ne teniamo solo un paio di caricatori per l'azione alla Fiat. Mi divertivo, ogni colpo era un centro, a 5, 10, 15, 20 metri. Poi prendemmo il mitra, una vecchia machine pistol esternamente mal ridotta, ma funzionava a meraviglia. Anche questa la butteremo via, dopo averla usata, se sarà necessario usarla, spiegò Danilo. Sparai qualche colpo e qualche breve raffica. Tiravo orizzontalmente. Danilo non fu soddisfatto e disse a Piero, fagli vedere tu. Prese il mitra e cominciò a sparare a brevi raffiche, 3-4 colpi, trasversalmente dall'alto in basso e da destra a sinistra, e viceversa, senza mirare, ogni volta almeno un colpo andava a segno. In questo modo, mi spiegarono, si evita il rischio di saltare la sagoma tra un colpo e l'altro o di mandare tutti i colpi nello stesso punto, fuori bersaglio, e si evitano anche gli effetti dello spostamento per il rinculo. Il mitra tende ad alzarsi, tu credi di sparare nello stesso punto e invece sei fuori bersaglio. Tirando diagonalmente si allarga la superficie che puoi coprire. Spararono ancora, sicuri nei movimenti. Alla fine provai ancora, andai molto bene. Possiamo ripartire, disse Danilo. Ora te lo possiamo dire. Stasera è il 15. Tutto è pronto, possiamo agire questa sera stessa. Rimasi un po' sconcertato. Non me lo sarei aspettato di dover passare all'azione così improvvisamente. Risalimmo in auto e Piero disse che l'avevano fatto apposta, non avevano voluto turbarmi. È sempre la notte che precede l'azione, quella più pericolosa per l'equilibrio psicologico. Per questo mi avevano detto niente fino all'ultimo. Ora avevano visto come avevo preso la faccenda della macchina rubata, come ero tranquillo e risoluto, quindi era venuto il momento di mettermi al corrente delle loro decisioni. Al massimo, concluse, possiamo rinviare a venerdì prossimo. Solo che ora è il 15, giorno del saldo. Quindi, con lo stesso rischio, troviamo più soldi. Ormai ero su di giri, dissi che andava benone, tanto prima o poi bisognava rompere il ghiaccio. Dunque, tanto valeva farlo subito. Entrammo a Torino, in periferia, alla Madonna di Campagna. lasciammo la macchina, andammo a fare una rapida cena in una trattoria toscana, bistecca e verdura. Bisognava tenersi leggeri e al tempo stesso sentirsi in forza. Mai ingozzarsi, disse Danilo, prima di un'azione. Era la regola del partigiano, che in verità aveva poche occasioni di mangiare troppo. Si diventava pesanti, coi riflessi lenti, lo stomaco dilatato e a pancia piena. È pericoloso anche nel caso che ti becchi una pallottola in corpo. Libri ribelli. Libri ribelli.